quanto a chiedersi cosa valesse in sé. Nessuno ci pensava. Non più adesso, per ammetterlo, che un tempo, per condannarlo. Non era più shocking, non occorreva altro. A malapena ci si ricordava che era stato tale, così come, passato un po' di tempo, non si sa più se il padre d'una fanciulla fosse o non fosse un ladro. All'occorrenza si può sempre replicare «No, è del cognato, oppure di un omonimo che state parlando. Sul conto di questo, invece, non c'è mai stato niente da dire». Allo stesso modo, è evidente che c'era stato Dreyfusismo e Dreyfusismo e quello che era di casa dalla duchessa di Montmorency e faceva passare la legge dei 3 anni. Non poteva essere il cattivo. In ogni caso, c'è un perdono per ogni peccato. Questo oblio, elargito al Dreyfusismo, lo si elargiva, a fortiori, ai Dreyfusisti. In politica, del resto, non ce n'erano più, perché a un certo punto, se volevano far parte del governo, lo erano stati tutti, compresi quelli che rappresentavano il contrario di quanto il Dreyfusismo, nella sua imbarazzante novità, aveva incarnato, ai tempi in cui Saint-Louis era su una brutta china. L'antipatriottismo, l'irreligione, l'anarchia, eccetera. Così il Dreyfusismo del signor Bonton, invisibile e costitutivo come quello di tutti gli uomini politici, non si vedeva più delle ossa sotto la pelle. Nessuno si sarebbe ricordato che era stato Dreyfusista, per la distrazione e la smemoratezza della gente di mondo, e anche perché da allora era trascorso un tempo molto lungo, e che si affettava di credere più lungo, essendo una fra le idee più alla moda, sostenere che l'anteguerra era separato dalla guerra da qualcosa d'altrettanto profondo e simulante un'altrettale durata quanto un'era geologica. E lo stesso Brichot, quel nazionalista, quando alludeva all'affare Dreyfus, diceva «In quei tempi preistorici!» A dire il vero, questo mutamento profondo operato dalla guerra era inversamente proporzionale al valore delle intelligenze coinvolte, almeno a partire da un certo livello. Al più basso, i puri imbecilli, i puri gaudenti, non si curavano che ci fosse la guerra. Ma al più alto, chi si è fatto un ambiente della propria vita interiore non fa molto caso all'importanza degli avvenimenti. Per costoro, l'ordine dei pensieri viene modificato ben più profondamente da qualcosa che sembra non avere di per sé alcuna importanza e sovverte l'ordine del tempo, rendendoli contemporanei d'un altro tempo della loro vita. È possibile rendersene conto, praticamente, dalla bellezza delle pagine che quel qualcosa ispira. Il canto d'un uccello nel parco di Montboissier, o una brezza carica del profumo della reseda, sono con ogni evidenza avvenimenti meno importanti delle date fondamentali della rivoluzione e dell'impero. Tuttavia, essi hanno ispirato a Chateaubriand, nei Mémoires d'Outre-Tombe, pagine d'un valore infinitamente più grande. Le parole Dreyfusista o anti-Dreyfusista non avevano più senso, a detta delle stesse persone che si sarebbero sbalordite e ribellate, se qualcuno avesse detto loro che probabilmente fra qualche secolo e forse prima la parola Bosch non avrebbe più avuto che un valore di curiosità, non diversamente da sans-culotte o chouan o bleu. Il signor Bontam non voleva sentir parlare di pace finché la Germania non fosse ridotta in tante particelle come nel Medioevo, la casa di Hohenzollern in rovina e Guglielmo II non avesse una dozzina di pallottole in corpo. Era, in una parola, quel che Brichot avrebbe definito un fino infondista, il miglior brevetto di civismo che gli si potesse concedere. I primi 3 giorni, certo, Madame Bontem era stata un po' spaesata fra le persone che avevano chiesto a Madame Verdurin di conoscerla, e fu con un tono lievemente acido che Madame Verdurin rispose «Il conte, mia cara, a Madame Bontemps, che le aveva chiesto: «È il duca di Haussonville, non è vero, che mi avete presentato?» O, per totale ignoranza e assenza d'ogni associazione fra il nome Haussonville e un qualsivoglia titolo, o, al contrario, per eccessiva istruzione e associazione di idee con il partito dei duchi, di cui le avevano detto che il signor d'Haussonville faceva parte all'Académie. A partire dal quarto giorno aveva cominciato ad essere solidamente installata nel Faubourg Saint-Germain. A volte si scorgevano ancora intorno a lei i frammenti ignoti d'un mondo che nessuno conosceva, ma che non destavano più stupore dei resti di guscio intorno al pulcino, in chi sapeva da quale uovo Madame Bontemps fosse uscita. Ma al quindicesimo giorno se li era scrollati di dosso, e prima che fosse trascorso un mese, quando diceva «Vado dai Lévy», tutti capivano senza bisogno d'ulteriori precisazioni che si trattava dei Lévy Mirepoix, e non una sola duchessa sarebbe andata a dormire senza aver saputo da Madame Bontemps o da Madame Verdurin, almeno per telefono, cosa ci fosse nel bollettino della sera, cosa ne fosse stato omesso, a che punto si fosse con la Grecia, quale offensiva si stesse preparando. In una parola, tutto quanto il pubblico avrebbe saputo soltanto il giorno dopo o più tardi ancora, e di cui s'aveva così una specie di prova generale. Durante la conversazione, Madame Verdurin, per comunicare le notizie, diceva «noi», parlando della Francia. «Dunque, esigiamo dal re di Grecia che ritiri dal Peloponneso, eccetera, gli mandiamo, eccetera». E in tutti questi racconti tornava di continuo il QG. «Ho telefonato al QG», abbreviazione che le dava a pronunciarla, lo stesso piacere che provavano in altri tempi le donne che non conoscevano il principe d'Agrigento a chiedere, sorridendo, quando si parlava di lui, per mostrarsi al corrente, «Grigri?». Piacere che in epoche di scarsi turbamenti solo i mondani conoscono, ma che durante le grandi crisi è conosciuto anche dal popolo. Il nostro maggiordomo, per esempio, se si parlava del re di Grecia, era capace di dire, come Guglielmo II, «Tino?», mentre fino a quel momento la sua familiarità con i re era rimasta, essendo di sua invenzione, più volgare, come ai tempi in cui, per parlare del re di Spagna, diceva «Fonfons». Si poté d'altronde notare che con l'aumento graduale del numero delle persone brillanti, desiderose di frequentare Madame Verdurin, diminuì il numero di quelli che lei chiamava «i noiosi». Per una sorta di trasformazione magica, tutti i noiosi che andavano a farle visita e sollecitavano un invito diventavano di colpo tipi gradevoli, intelligenti. Per farla breve, in capo a un anno, il numero dei noiosi si era talmente ridotto che la paura e l'orrore d'annoiarsi, che avevano tenuto banco nella conversazione e svolto un ruolo di primo piano nella vita di Madame Verdurin, erano quasi completamente spariti. Si sarebbe detto che, avanzando negli anni, l'orrore di annoiarsi, che un tempo d'altronde assicurava di non aver provato nella prima giovinezza, la facesse soffrire di meno, come certe emicranie, certe crisi d'asma che perdono forza quando si invecchia. E lo spavento della noia avrebbe probabilmente abbandonato del tutto, per mancanza di noiosi, Madame Verdurin, se non avesse in qualche misura sostituito quelli che non lo erano più con altri reclutati fra i vecchi fedeli. Del resto, per finirla con le duchesse che frequentavano ora il salotto di Madame Verdurin, ciò che venivano a cercarvi era esattamente, senza che se ne rendessero conto, la stessa cosa che vi cercavano un tempo i Dreyfusisti, ossia un piacere mondano, composito, la cui degustazione appagava le curiosità politiche e saziava il bisogno di commentare fra intimi gli incidenti letti sui giornali. Madame Verdurin diceva «Venite alle 5, si parlerà della guerra», come un tempo. «Si parlerà dell'affare», e nell'intervallo «potrete ascoltare Morel». Ora, Morel non sarebbe dovuto essere lì, visto che non era per niente riformato, semplicemente non si era presentato ed era disertore, ma nessuno lo sapeva. Le cose erano talmente poco cambiate che si ritrovavano con assoluta naturalezza le parole d'una volta, ben pensanti, mal pensanti, e poiché sembravano diverse, poiché gli ex comunardi erano stati antirevisionisti, i più accesi dreyfusisti volevano far fucilare tutti e avevano l'appoggio dei generali, così come questi, ai tempi dell'affare, erano stati contro Gallifet. A queste riunioni Madame Verdurin invitava alcune dame un po' recenti, conosciute tramite le opere di carità, che le prime volte arrivavano con toilette sfarzose e grandi collane di perle, alle quali Odette, che ne aveva una altrettanto bella, della cui esibizione aveva a sua volta abusato, adesso che era in tenuta di guerra, guardava, sull'esempio delle signore del Faubourg, con severità. Ma le donne si sanno adattare. Dopo 3 o 4 volte si rendevano conto di come le toilette che avevano creduto eleganti fossero proscritte precisamente dalle persone che lo erano, mettevano da parte i loro vestiti d'oro e si rassegnavano alla semplicità.